l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'altra Europa. Siamo come sempre in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento dedicato alle altre Europe, altri punti di vista sul nostro continente, sulla nostra Unione Europea. Le coordinate per seguirci in diretta, l'SMS come sempre il 349-238-6666 e poi soprattutto la pagina Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, o Twitter, l'account del mio personale, chiocciola Federico Taddia, pagine virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi viaggeremo tanto, come sempre, parleremo di un'importante consultazione europea su un tema che sembra specifico, però viene chiesto anche il parere dei cittadini, si parla del biologico, parleremo del giorno della memoria, parleremo di una delle capitali europee della cultura, ma il nostro viaggio oggi parte da Porto. Stiamo andando nella Ribeira, il centro storico di Porto, patrimonio UNESCO, uno spettacolare cuore di una città altrettanto bella, ma un centro storico anche fatiscente, disabitato, un centro storico che avrebbe bisogno di essere riqualificato, però siamo nel Portogallo, nella morsa della crisi, le persone non hanno i soldi per ristrutturare, le persone abbandonano il centro storico e in questa situazione c'è un progetto, si chiama Haribita, che in italiano significa rianimarsi, un progetto di riqualificazione a costo zero. Per capire cos'è e come funziona abbiamo invitato uno degli architetti coinvolti, che è un italiano, si chiama Flavio Carniel, di Feltre, in provincia di Belluno, laureato in architettura a Venezia, studiato in Norvegia e Finlandia e ora appunto in Portogallo. Ciao Flavio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno Italia. Allora, intanto faccela vedere questo centro storico. Che cos'è la Ribeira? La Ribeira è la zona principale di Porto, è la zona intitolata e iscritta nelle liste UNESCO come patrimonio dell'umanità e quindi è una commistione di edifici, di colori, di architettura e di storia soprattutto portoghese che rende Porto una delle città più importanti del Portogallo e dell'Europa occidentale. Assieme a tutte queste caratteristiche, sì, la Ribeira purtroppo ha subito uno spopolamento che procede ogni 10 anni ad una diminuzione del 30% della popolazione. E questo ha significato un grosso problema per la parte storica protetta dall'UNESCO, perché questi edifici di impianto medievale sono praticamente sventrati in se stessi, disabitati e stanno perdendo proprio tutta la loro bellezza, perché non potendo essere abitati dai portoghesi stessi stanno perdendo identità e questo è un grosso problema proprio sia per il fatto di essere patrimonio dell'umanità, sia per il fatto di essere un patrimonio portoghese, dei portoghesi. Certo. E in questa scia è partito il progetto Haribita Porto, che come dicevi infatti si intende rianimati, datti forza Porto. È un progetto dove a capo, ideato da un architetto, José Paixão, se non erro la pronuncia. Sì, allora non posso permettermi la pronuncia portoghese nemmeno io, ma credo si dica José Paixão. Ok. E appunto è a capo di un team fisso di architetti e ingegneri senior che si occupa di tutta la parte burocratica e poi è stato ideato questo meccanismo virtuoso di giovani architetti che vengono coinvolti per brevi periodi di alcuni mesi. Questi giovani architetti, credo come te, hanno la fortuna, la possibilità di fare un'esperienza a livello internazionale e nello stesso tempo dare un contributo a basso costo, giusto? Sì, José si sta occupando di tutta la parte comunicativa del progetto, sì. Praticamente tiene in mano tutta la rete dei fornitori, dei partner e, come dicevi tu, dei professionisti portoghesi che qui lavorano. Come conosci bene, un progetto d'architettura, un progetto comunque in un edificio, soprattutto UNESCO, ha bisogno di avere un team locale che parli chiaramente la lingua. Ovvio, sì. Perché le persone che poi lavoreranno in cantiere, oppure i politici, tutte le persone con cui ci si interfaccia quotidianamente, sono portoghesi. E tu di cosa ti occupi in particolare invece? Ed invece noi siamo dei professionisti architetti ed ingegneri, nel mio caso architetto, e siamo coinvolti con tutta la parte tecnica del lavoro. I gruppi di lavoro sono formati da 5 professionisti internazionali, sì, che ruotano ogni 3 mesi. E in questo momento c'è il team numero 4, siamo formati in varie università europee, ci siamo formati, nel mio caso parto dall'Italia, poi abbiamo un architetto portoghese, dalla Spagna, dal Belgio e dalla Francia, e ci occupiamo proprio della fase di dettaglio. Stiamo lavorando, anche ieri eravamo in cantiere assieme proprio agli architetti e agli ingegneri locali, e stiamo sviluppando tutto il progetto esecutivo sull'edificio, che si trova proprio a ridosso della Ribeira, della zona di Porto che descrivevi tu, certo, quindi proprio nel cuore dell'UNESCO. Questo edificio, che è un po' il progetto pilota dell'insieme, dell'intero sistema di riqualificazione che si dovrebbe concludere nel 2014, se non erro, ristrutturazione di questo edificio. Diamo il sito, che è www.arrebita.org, per conoscere l'intero progetto. Tu rimarrai lì quindi fino a quando, Flavio? Io resto fino a Pasqua, okay. Per Pasqua riesco a passare in Italia. Va bene, magari prima di Pasqua allora ci risentiamo, così ci aggiorni in diretta sui volentieri lavori e soprattutto su questa iniziativa virtuosa. Credo sia un bel modello che vada copiato e che vada studiato per essere replicato anche in altre situazioni. Ciao, grazie, buon lavoro. Sì. Grazie a te. E accompagnati dalle musiche della colonna sonora del film Schindler List, parliamo del giorno della memoria, sarà domani, e per farlo andiamo a Berlino, quello che Berlino si appresta a vivere, che sta vivendo un anno particolare, sono gli 80 anni dell'ascesa al potere di Hitler, un anniversario che sarà contornato da 120 manifestazioni, sono tante le iniziative previste per ricordare, manifestazioni appunto per non far dimenticare, perché il valore della memoria ritorni nella quotidianità. Per capire quello che sta accadendo a Berlino e dintorni abbiamo con noi Emanuele Valariano del Dipartimento di Educazione e Comunicazione del Museo Storico Tedesco di Berlino. Buongiorno Emanuele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tantissime iniziative, e voi in particolare ne avete uno di cui parleremo fra pochissimo. È un anno strano questo per Berlino, vero? Beh sì, sono appunto, come già accennava, sono 80 anni dall'ascesa al potere di Adolf Hitler e 75 anni dalla notte dei cristalli, come, sì, o come viene detto qui, dai pogromi di novembre. Che atteggiamento c'è rispetto alla memoria? Si vuole dimenticare, o questi 80 anni sono l'occasione per ricordare, per comprendere, per capire? Che percezione hai? No, assolutamente non dimenticare, ma fare memoria. La città si presenta come luogo di memoria in tutti i suoi spazi, edifici, istituzioni presenteranno lavori o progetti inerenti a mostrare la distruzione e la perdita di questa grandissima diversità e pluralità che viene distrutta subito dopo il 33 e con l'avvento del nazismo. Diversità distrutta è il titolo della mostra, se non erro, di cui ti occupi tu. Cosa si vede, cosa si vive appunto all'interno di questo museo? Dunque, al museo nel Palazzo delle Esposizioni adiacente, verrà presentata una mostra appunto dal titolo Diversità distrutta durante il nazionalsocialismo, quindi soprattutto focalizzando gli anni tra il 33 e il 38, dove tutta la bellezza, la ricchezza sia economica che culturale che anche politica della Weimar Republic, come piano piano è andato a perdere tutta queste ricchezze. E il progetto della mostra, curato dalla dottoressa Simone Erpel, in concomitanza con il Bundesland di Berlino, presenta fondamentalmente una topografia, come una mappa geografica, diciamo, di quella che era la città nella sua varietà. E l'anno è appunto dedicato a questa diversità distrutta, e ogni punto della città, con delle colonnine, con dei manifesti, con i volti dei personaggi che hanno fatto questo periodo, e metterà in evidenza che cosa è andata a perdere. Emanuele, so che c'è anche una sorta di revisionismo dei termini storici in atto, vero? Ci sono parole che si cerca di non utilizzare più a favore di altre. Sì, c'è una ricerca soprattutto di utilizzare terminologie più adatte e non metterle al servizio di slogan, fondamentalmente. Okay, quindi creare un soprattutto di fare una storia, come si può dire, il più obiettiva possibile. Certo. www.dhm.de è il sito ufficiale per avere tutte le informazioni. Emanuele, tu come sei arrivato lì? Questa è una domanda personale, ma ci incuriosisce sempre capire i percorsi dei nostri ospiti. Sono laureato in filosofia. Per me è molto interessante poter lavorare con le persone. Il fatto di avere la possibilità di poter educare attraverso la storia è per me sicuramente un compito, una missione. Sì. E che è molto riscontrato qui la possibilità. Si è realizzata, sono belle parole, ci fa sempre piacere quando qualcuno riesce a realizzare quella che è la propria missione. Questo, insomma, utilizziamo anche noi le parole scelte da te. Grazie davvero Emanuele, bocca al lupo e buon lavoro. Quando chiuderà la mostra? La mostra finisce a novembre. Perfetto, quindi c'è praticamente tutto l'anno per tutto visitarla. L'anno, sì. Grazie ancora e buon lavoro. Di nuovo, arrivederci. Eccoci qui ancora con l'altra Europa, è ora di cambiare argomento e parliamo del cinema che racconta i respingimenti dei migranti in Europa. Lo facciamo prendendo spunto da una importante giornata che sarà martedì 29 gennaio, dove a Roma, presso il Film Studio Roma, in via degli Orti, Dalibert 1, tutti i link li stiamo già pubblicando sui nostri social network, ci sarà una doppia proiezione di due film che appunto hanno la migrazione, hanno quelli che sono i centri di detenzione come oggetto. I due film sono Vol Special e Mare Chiuso di Andrea Segre, e con noi c'è proprio Andrea Segre. Ciao Andrea, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno, ciao. Prima di parlare del tuo film, di cui già abbiamo accennato, ci sarà questa proiezione invece di Vol Special, questo è il titolo corretto, scusami? Vol Special. Ok, scusami. Che è un primo documentario di fatto girato all'interno di un centro di espulsione in Svizzera. Di cosa si tratta? È un film documentario molto forte, molto intenso, e girato peraltro molto bene da Fernand Melgar, che è appunto un regista svizzero pluripremiato diverse volte a Locarno e in diversi festival in giro per il mondo, ed è la prima volta che un regista può rimanere per molto tempo. Lui è stato per 9 mesi all'interno di un centro di espulsione al fine di non solo denunciarne alcune violazioni, alcune violenze che si vivono, psicologiche e fisiche, all'interno di questi centri, ma soprattutto di permetterci di capire qual è la quotidianità del vivere una condizione di detenzione pur non avendo commesso nessun reato. Cosa succede nella tua vita quando vieni privato totalmente della libertà e vieni costretto a passare fino a 2 anni all'interno di un centro aspettando che qualcuno decida del tuo destino, cioè se tu puoi rimanere nel luogo dove magari stai vivendo già da molti anni o se vieni espulso. È l'unico motivo per cui sei lì dentro completamente privato di libertà e molto spesso appunto soggetto anche a violazioni, è perché hai viaggiato senza un documento legale, ma non hai commesso nessun altro tipo di violazione della libertà altrui. Certo, per la prima volta in Europa viene raccontata questo dramma, viene raccontato appunto in Svizzera. Tu hai fatto un lavoro simile, un lavoro parallelo, dove mettevi in rapporto invece quello che era la migrazione, il Mediterraneo, quindi l'altra porta d'Europa. Sono due facce della stessa Europa, quello che è stato raccontato in Svizzera e quello che hai raccontato tu. Il racconto di Maidar è un racconto che si situa all'interno di un centro di espulsione in Svizzera, ma è un racconto davvero universale che ci permette di comprendere qual è il significato poi profondo di questa realtà che è ovunque ormai in Europa, perché appunto non soltanto in Svizzera ma anche in Italia ci sono ben 13 centri di espulsione e in tutti i paesi d'Europa. Il film che io e Stefano Liberti abbiamo fatto e che appunto uscirà in DVD con un libro allegato la prossima settimana e presenteremo martedì insieme a Vol Special, è il film che racconta invece un'altra aberrazione delle politiche securitarie in Europa, cioè quelle delle operazioni di respingimento in alto mare, ciò che appunto successe tra il maggio del 2009 e luglio 2010 nelle acque del Canale di Sicilia, quando Maroni e Berlusconi organizzano le operazioni di respingimento in accordo con l'allora amico Gheddafi. Sono due facce di una deriva molto pericolosa che avviene lì dove la pulsione di controllo e protezione del nostro in qualche modo privilegio europeo ci porta poi a perdere il controllo della centralità di quella che dovrebbe essere la nostra civiltà, cioè il rispetto della dignità di ogni individuo al di là della propria provenienza. Ricordiamo quindi martedì 29 gennaio ci saranno proiezioni di Vol Special alle 18, alle 20.30, alle 22.30, mentre alle 22.30 ci sarà la proiezione di Mare Chiuso, poi appunto in uscita per Minimum Fax il libro più duty di Mare Chiuso. Grazie davvero Andrea, diamo anche il sito che è filmstudioroma.com. Ci piaceva parlarne oggi in cui abbiamo accennato al giorno della memoria, perché memoria è anche questa, conoscere l'attualità e quello che sta succedendo in questi mesi, in queste settimane, in queste ore, quindi ora. Grazie davvero e buon lavoro Andrea, alla prossima, ciao. E ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre L'Altra Europa, facebook.com/L'Altra Europa oppure su Twitter, @FedericoTaddia per seguirci in diretta, per avere aggiornamenti di tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Quello che state ascoltando è il concerto di inaugurazione dell'anno 2013, anno europeo della cultura, e siamo a Codice, siamo in Slovacchia e Codice è insieme a Marsiglia, capitale europea della cultura 2013. Abbiamo già parlato di Marsiglia, abbiamo conosciuto, scoperto, così un po' sfogliato il programma di questo anno particolare. La stessa cosa la vogliamo fare con Codice e con noi c'è Martina Balunova, consigliere dell'ambasciata slovacca a Roma. Ciao Martina, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Intanto, dov'è Košice? Dacci qualche coordinata. Košice è la seconda città più grande della Slovacchia e si trova nell'est del paese, vicino ai confini con Ucraina e con Ungheria, quindi in una zona multiculturale. proprio. Una città bella? È una città bellissima, una città storica con tanti monumenti bellissimi da vedere. Sai che leggevamo un sondaggio qualche mese fa in cui si diceva che per esempio la Slovacchia è una delle nazioni meno conosciute dagli italiani e forse anche da tanti altri paesi europei, quindi credo che questo anno europeo della cultura sia veramente una grande occasione per la città ma per la stessa nazione per farsi conoscere. Cosa significa per Košice essere capitale europea della cultura? Košice, come ho detto, è una delle città più importanti della Slovacchia. Nel passato fu una sede di importanti movimenti politici, quale seconda metropoli del Regno d'Ungheria. Sotto il dominio austro-ungarico la città aumentò fortemente la popolazione tedesca, ebraica e slovacca, e il suo carattere multiculturale si è preservato fino a oggi. E questo progetto della capitale europea della cultura è una delle iniziative più conosciute in campo culturale dell'Unione Europea, proprio con lo scopo di promuovere e celebrare la ricca diversità culturale dell'Europa e il suo patrimonio e promuovere la comprensione reciproca e il dialogo interculturale. E il progetto è anche un'occasione incredibile di sviluppo per la città, che può cambiare il proprio volto e promuovere il turismo e la crescita. Certo, dal fondo europeo sono arrivati 60 milioni di euro, che insomma sono una bella cifra, e la città ne sta facendo buon uso. È cambiata Košice grazie a questo aiuto, grazie a questi fondi? Sì, certo, grazie a questo progetto Košice è diventata la città con lo sviluppo più dinamico in Slovacchia negli ultimi 2 anni e soprattutto a questi fondi europei che hanno dato il via a una ventina di costruzioni e ristrutturazioni, tra le quali per esempio il restauro della cattedrale o la messa in opera di un centro culturale polifunzionale nei locali della vecchia piscina coperta, che è un edificio dall'architettura importante degli anni 50 del secolo scorso, dove è stata anche creata la prima Kunsthalle slovacca, cioè una moderna sede espositiva per l'arte contemporanea e per la sua documentazione. www.košice2013.sk è il sito ufficiale di Košice, capitale europea della cultura 2013, oltre 1000 artisti coinvolti, centinaia di eventi in 70 diversi spazi. Credo sia difficile sintetizzare il programma. C'è qualche chicca? Ci vuoi fare qualche esempio di quello che si potrà vedere e fare in questo anno a Košice? Per esempio, questo progetto è stato ufficialmente lanciato sabato scorso con una cerimonia nel Teatro di Stato alla presenza di alti rappresentanti della Slovacchia e della Commissione Europea. Il grande show di apertura si è poi svolto in piazza dove si sono radunate circa 100.000 persone. È stato uno spettacolo concepito in modo completamente diverso dalle precedenti presentazioni ed eventi culturali in Slovacchia, ma anche in altre città europee. Oltre ai discorsi e ai numeri musicali, per esempio è pervenuto anche un saluto in diretta dallo spazio fatto dagli astronauti della navetta spaziale ISS. Ok, quindi insomma una partecipazione significativa. Altri eventi poi sono tematicamente divisi in blocchi di programma, come colazione in città, appunti culturali internazionali, design e fashion weekend, collezione invernale della Facoltà delle Arti, terra incognita, musica nelle città, eccetera. Poi c'è un programma di illuminazione celebrativo della cattedrale di Santa Elisabetta e altri programmi di accompagnamento, inclusa la partecipazione degli artisti da tutta Europa. Insomma, tante iniziative. Un'ultima domanda, anzi un'ultima dritta, Martina, ma un turista che arrivasse a Košice, qual è la prima cosa da andare assolutamente a vedere? Qual è il tuo consiglio? Io direi sicuramente la cattedrale di Santa Elisabetta, che è la cattedrale gotica più orientale al mondo, poi la torre di San Urbano, sulla quale adesso in questa occasione rivivono, grazie ad una illuminazione speciale, le storie della città e della regione, e poi il Museo della Slovacchia Orientale con il suo unico tesoro d'oro, composto da quasi 3.000 monete d'oro risalenti al periodo del XV e XVI secolo. Perfetto. Ma ci sono tante altre cose da vedere. C'hai convinti. Grazie davvero Martina, ricordiamo ancora cosice2013.sk, il sito ufficiale. Ciao e buon lavoro, grazie per essere stata grazie con noi. Grazie a voi, buona giornata. E dalla Slovacchia passiamo alla Slovenia, siamo infatti a Maribor, la capitale europea dei giovani 2013, anche questa è un'iniziativa che ogni anno coinvolge migliaia di giovani. Capitale europea dei giovani significa appunto una serie di attività proposte principalmente agli under 30, anche se non si vanno a escludere le altre generazioni, un'occasione per consentire ai giovani di essere informati, di essere partecipi attivamente alla società, alle comunità locali, per contribuire insomma a creare una società civile, per contribuire a conoscere, ad apprezzare la propria realtà, contaminandosi anche con altri giovani di altre nazioni. Questo è un po' il cuore dell'essere capitale europea. Siamo a Maribor con un volontario, perché alla fine sono anche i volontari la vera colonna portante di queste iniziative. Un italiano, si chiama Alfredo Lopomo. Ciao Alfredo. Ciao Federico, ciao gli ascoltatori. Tu sei italiano, che ci fai a Maribor? Come mai sei vivi io, lì? Io sono italiano e vivo qui da 3 anni, sì. Uh-huh. Io lavoro fondamentalmente in aeroporto qui vicino e abito qui. Ok, ti trovi bene, ti piace, hai scelto... All'inizio è un po' difficile come tutte le parti. Io ho viaggiato, ho vissuto in diverse parti d'Europa, ma... qui si sta bene. Ok. Alfredo, come mai hai scelto di fare il volontario per questo evento, per questa iniziativa? Ma io già abitavo qui, quindi perché la capitale europea dei giovani, diciamo, dopo essere l'anno scorso Maribor, come ho sentito prima, da Košice, capitale europea della cultura, quest'anno, diciamo, la città ha fatto l'applicazione per questo progetto europeo e quindi... io già mi trovavo qui, ho dato una mano, dato che sono uno dei pochi che parla anche italiano e sloveno qui, posso dare una mano. Comunque per me la capitale europea dei giovani è una cosa che praticamente può essere data la possibilità di mostrare attraverso un programma la gioventù culturale, sociale, politica e anche attraverso appunto la vita economica di come è lo sviluppo della città. Mm-hmm. Tantissime iniziative, tantissimi giovani coinvolti. Oggi proprio alle 17 ci sarà l'apertura ufficiale, se non erro, vero? Sì, alle 17 oggi c'è l'apertura ufficiale. Anche in questo momento c'è insieme alla Coppa del Mondo di sci alpino. Sì, ieri hanno tirato i numeri per lo slalom gigante, oggi faranno la stessa cosa per lo slalom normale. Io sono qui a guardare lo slalom, le nostre italiane niente di niente, c'è solo Nadia Franchini decima, però meglio di niente. Vincentina Mazze sempre anche qua. Ok, abbiamo dato un aggiornamento anche di sport in diretta, grazie. Scusate, no, sono qua, questa è la realtà. Alfredo, facci un paio di esempi di iniziative che ti hanno colpito sfogliando il programma di questo anno. Gli eventi sono più di 150 eventi sul programma, che praticamente è stato creato da parte delle istituzioni e organizzazioni giovanili, e ci sono 11 temi principali che potete trovare sul sito. Ve ne parlo di 4 principali, tipo sì. Programmi per l'occupazione. Sì. Uno di questi, per esempio, è Dall'idea, il titolo è Dall'idea alla realizzazione attraverso l'occupazione, e l'Agenzia per il Lavoro di Maribor, ovviamente con il programma regionale europeo, offrirà 20 posti di lavoro per i giovani con linee, con idee innovative, e appunto il programma regionale europeo offrirà nuove imprese. Una di queste imprese è appunto un'iniziativa Rom, che sarà l'apertura di un ristorante Rom completamente gestito da Rom e con 5 a 10 giovani Rom impiegati, ovviamente con tutto il menù Rom. Certo. Questa è una delle iniziative sull'occupazione. Un'altra che mi ha colpito aveva uno strano nome, che è Kikiriki, che credo che sia, se ho capito bene, è sia il verso del gallo, ma è anche il nome delle noccioline tostate tipiche slovene. Praticamente, le noccioline tostate. Ok, quelle normali, perfetto. È come quelle normali, sì. Uh-huh. Kikiriki, poi scritto non come in italiano, come ci immaginiamo noi con la CH, ma è scritto con la K, sì. Quindi immaginatevi Kikiriki scritto con la K, e questo è un progetto di creatività, sul tema di creatività, appunto sul suono del gallo, svegliatevi. Praticamente saranno improvvisazioni di attività sociali, artistiche, ambientali in giro per tutta la città. Un esempio di un'attività, per esempio, si chiama Balla e canta con me, promosso dal gruppo folcloristico studentesco di Maribor dell'università, dove in varie parti della città ci saranno improvvisazioni folk, musica folk, balli folk, così per motivare un po' la gente. Cioè, e l'iniziativa prevede anche un'improvvisazione appunto nel Dipartimento di Pediatria dell'ospedale di Maribor. Altre iniziative che ho letto: ci sarà la riunione annuale dell'Erasmus Student Network, un evento ecologico dove verranno riutilizzate le biciclette sequestrate dalla polizia. Insomma, veramente per tutti i gusti. mb2013.si/n, il sito ufficiale, l'abbiamo già pubblicato sui nostri social network. Grazie davvero, Alfredo, per averci dato un assaggio di quello che sta accadendo, ma ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, perché vogliamo viverlo anche noi questo anno a Maribor, capitale europea dei giovani 2013. Ciao e buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Ciao. Quella che sta cantando è una patata. Si è parlato anche questa settimana tanto di OGM all'interno della commissione, con decisioni congelate. Noi invece andiamo a parlare dell'altra faccia dell'agricoltura, che è il biologico, su cui l'Europa sta investendo tanto e su cui la commissione ha fatto una scelta forte, che è quella di lanciare una consultazione popolare aperta a tutti i cittadini oltre che agli addetti ai lavori. Una consultazione che si è aperta il 15 gennaio, si chiuderà il 10 aprile. Poi metto i link comunque sul sito ec.europa.eu, ci si arriva direttamente, dove si può esprimere la propria opinione, dove gli europei hanno l'opportunità di dire la loro sulla definizione di agricoltura biologica. Per capire il senso di questa consultazione abbiamo con noi Guido Castellano, che è assistente di uno dei quattro direttori generali aggiunti della Direzione Agricoltura della Commissione Europea. Buongiorno Castellano, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. È una scelta forte, bella, quella di chiedere comunque il parere ai cittadini su un qualcosa che è sì specifico, sì tecnico, sì per addetti ai lavori, poi però coinvolge ognuno di noi quando si va a fare la spesa. Il settore biologico è un settore importante oggi per l'Europa? Sì, come dice lei, il settore biologico è ovviamente nel cuore degli interessi dei consumatori, di noi tutti, dei cittadini europei, e quindi la Commissione ha voluto aprire a tutti i cittadini uno spazio per dire la propria opinione e anche per presentare le proprie aspettative e suggerimenti per la revisione del regolamento che appunto regola la fase di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici. Il settore biologico è comunque un settore in forte crescita, e questo sia a livello mondiale che a livello europeo che a livello italiano, il che è diciamo abbastanza raro in tempi di crisi economica come quelli attuali. E quindi è un settore che insomma dà da un certo punto di vista soddisfazione anche alla Commissione europea. Certo. Diciamo che noi intendiamo con questa consultazione pubblica permettere proprio di ascoltare i cittadini e di orientare poi la formulazione e lo sviluppo del nuovo regolamento anche in funzione della loro opinione. Quindi insomma queste opinioni potranno influenzare quelle che saranno le prossime scelte, le prossime direttive riguardanti il biologico. Ma Castellano, perché io, che per esempio non sono esperto in materia, dovrei dare un'opinione? Perché a voi interessa anche la mia di cittadino qualunque, giusto? Anzi, le dirò che innanzitutto che la consultazione sta avendo un grandissimo successo. Abbiamo avuto al momento nel periodo limitato di apertura fino ad ora circa 18.000 contributi, e la grande maggior parte di questi contributi sono appunto da parte di cittadini comuni, quindi non appartenenti alla filiera, non operatori della filiera o tecnici come diceva lei, ma proprio cittadini che vogliono dire la loro, perché alla quello che è importante dell'agricoltura biologica è che i cittadini siano coscienti poi di quello che informati di quello che comprano, di quello che consumano nel momento in cui scelgono un prodotto biologico, e quindi è un argomento che suscita molto interesse da parte della, diciamo, della gente comune. Certo. Tra l'altro devo dire che a giudicare dal contenuto dei contributi mi sembra anche di poter dire che c'è un certo livello di conoscenza del settore, sicuramente un fortissimo interesse. E questo è importante. Castellano, grazie davvero intanto per averci introdotto l'argomento, però ci diamo già appuntamento dopo aprile a consultazione conclusa per fare qualche valutazione sui risultati. Grazie davvero, buon lavoro. Sì, certamente, con piacere. Faccio presente che i risultati comunque della consultazione pubblica saranno pubblicati. Perfetto, sì, ci sarà modo. Ottimo. Saranno accessibili attraverso il sito. Grazie davvero, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa. Dobbiamo correre a radio24.it per riascoltare la puntata. Noi ci ritroviamo qua, come sempre, sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.